parole e comincio richiamando l'attenzione sul fatto che nel titolo non c'è l'articolo, non le traduzioni, traduzioni, cioè si procede per una semplificazione, altrimenti l'argomento sarebbe molto vasto. Non so se si sente, forse sì. Dunque, l'interscambio linguistico nella tarda antichità e in età bizantina avanzata è argomento di grande significato anche quando le proporzioni del fenomeno rimasero nel complesso rispetto all'insieme modeste. Ciò accadde in genere quando la lingua di arrivo fu il greco. In ragione di un'antica e lunga tradizione ereditata e proseguita dai bizantini, se non proprio di disinteresse, di scarsa curiosità per lingue e culture diverse dalla propria. Non mancarono ovviamente le eccezioni alle quali facciamo un rapidissimo accenno, per esempio in armeno furono tradotte nei primi secoli due versioni del libro della Catangelo, la Narratio de Rebus Armenie, dall'arabo e dal persiano diversi testi scientifici, soprattutto astronomici, ma anche medici e farmacologici. Originali vari, siriaci, arabi, georgiani, sono chiamati in causa per un'opera narrativa quale il Barlam, dell'VIII secolo. Più chiara la situazione per i romanzi più recenti, quali lo Stefanita e Icnelata, tradotto dall'arabo, come sappiamo, da Simeon Set, e il Sintipa, che è tradotto dal siriaco da Michele Andreopolo. C'è anche il capitolo delle traduzioni di testi latini a Bisanzio. Non è forse di primaria importanza nel panorama di quella immensa letteratura, ma merita di essere approfondito e soprattutto di essere considerato in quanto tale, non come elemento occasionale o accessorio in margine ad altri interessi, è quello che ordinariamente accade. Mi riferisco in special modo ai testi in senso lato religiosi, che le cose stanno un po' meglio con i testi profani, avendo in tal campo esercitato a più riprese il suo naturale richiamo, la popolarità, se così si può dire, degli autori tradotti, per esempio il Cicerone del Somnium Scipionis, naturalmente l'Ovidio Amatorio, il Boezio della Consolazio, eccetera. Non è certo questa la sede in cui proporre la trattazione esaustiva, come dicevo, della traduzione dal latino in greco bizantino di testi religiosi, della quale si sente peraltro il bisogno. Ci limiteremo a un discorso esemplificativo, forse saltuario, avente il solo scopo di fornire una idea delle tematiche, dei problemi soprattutto e dei compiti relativi a tale settore degli studi e al suo in genere trascurato o insospettato significato storico-culturale, quindi un significato che va al di là della circoscritta provincia della traduzione dei testi religiosi. Gioverà dare inizialmente uno sguardo al materiale a disposizione. La parte del Leone la fanno evidentemente i primi secoli, dalla prima metà del terzo a tutto il quarto, quando si apprestano traduzioni soprattutto di testi agiografici e patristici. La serie è aperta come nodo dalla Passio dei martiri scillitani, la cui versione fu pubblicata da Hermann Usener, e da quella più celebre delle sante Perpetua e Felicità, alla quale seguirono opere di Tertulliano, Cipriano, Ambrogio, Girolamo, Rufino anche, in greco, la continuatio latina della storia ecclesiastica di Eusebio, eccetera. Talvolta il traduttore in greco sembra essere stato lo stesso autore del testo tradotto, così per esempio nel caso della Passio Perpetue et Felicitatis. Tal altra uno stesso autore, ad esempio il perfettamente bilingue Tertulliano, ha prodotto direttamente le sue opere nelle due lingue, il De Baptismo, il De Spectaculis, il De Virginibus Velandis. In qualche caso si sono avute anche retroversioni e dislocazioni di testi. Per esempio il prologo greco della Passio Perpetua et Felicitatis passa nella Passio greca di San Procopio di Cesarea, nella recensio rappresentata dal Parisinus Grecus 1470, e da lì in nuova veste latina nella Passio latina dello stesso santo, nella sua recensio cassinese. Un nutrito gruppo a sé, il più noto, è costituito dalle vite di santi, le quali ebbero gran successo nel mondo greco, a giudicare anche dal fatto che in più di un caso lo stesso testo non fu tradotto una sola volta, ma indipendentemente due o più volte, come per esempio la vita di Sant'Ilarione, quella di San Paolo di Tebe, eccetera. E ancora sub iudice la questione dell'esistenza di una versione greca della più celebre vita occidentale, la vita Sancti Martini di Sulpicio, anche se il santo ebbe ben presto notorietà anche in Oriente. Nei secoli seguenti l'interesse per le traduzioni dal latino scema notevolmente. Non è accertata l'origine delle vite greche dei papi Leone I e Martino I, la vita di Ambrogio scritta da Paolino sarebbe stata tradotta in greco a giudizio del suo editor Princeps, il Papadopoulos Chierameus, nell'VIII secolo o all'inizio del IX, ma le altre vite greche del santo non risalgono direttamente a fonti latine, si tratta di rielaborazioni. Nell'VIII secolo, altro esempio ben noto, Papa Zaccaria, un greco di Calabria, traduce i dialoghi di Gregorio Magno ed altre opere che riguardavano Gregorio, il quale Gregorio fu perciò detto o dialogos, per distinguerlo dal o theologos. Si tratta comunque di briciole, e lo stesso vale per la lettura profana. Per ritrovare una rifioritura della traduzione profana e religiosa bisognerà attendere gli ultimi tre secoli di Bisanzio, per poi passare nell'umanesimo occidentale. In genere si fa cominciare tale rinascita con Manuele Olobolo e Massimo Planude, rispettivamente circa 1240-1284 e circa 1255-1305. Ma vi è stata una tappa precedente, la cui rilevanza storica fu additata nei primi anni 50 dal domenicano belga Antoine Dantin, senza peraltro ottenere grande risonanza. Si tratta dei primordi di una lunga stagione di contatti fra latini e greci, tra virgolette, in senso ecclesiastico, contatti giocati soprattutto sul terreno della polemica teologica. Una stagione protrattasi per circa tre secoli e variamente feconda di risultati. Per troppo lungo tempo, diciamo dal IX al XII secolo, la incomunicabilità fra i due mondi era stata quasi totale. Agli uni e agli altri il rispettivo universo religioso era stato praticamente un enigma, un persentito dire, tutto di seconda mano. Gli occidentali si erano trovate sbarrate le sorgenti del pensiero teologico greco, gli orientali avevano nutrito solo pregiudizi sfavorevoli su quello latino. Una svolta si ha nel 1177 con la pubblicazione a Costantinopoli di un grosso trattato sulla processione dello Spirito Santo, il De Sancto et Immortali Deo, vulgato questo trattato sotto un falso titolo, il falso titolo De Eresibus Quassa Greci in Latinos Devolvunt, che si trova nella patrologia latina del volume 202. Trattato d'un teologo latino, Ugo Eteriano, consigliere laico alla corte di Manuele I Comneno. Ugo, le cui propensioni teologiche e unionistiche sono note agli storici della Chiesa, era affiancato dal fratello Leone Toscano, Leo Tuscus, viene detto, interprete questi a corte. Gran conoscitore della patristica greca e autore di un altro trattato, pubblicato anch'esso a Costantinopoli, De Eresibus et Prevaricationibus Grecorum. Grande importanza il fatto che ciò si pubblica a Costantinopoli, questo si sottolinea. Codesti scritti ravvivavano il dibattito teologico e unionistico, portando la polemica nel cuore stesso di Bisanzio e su basi nuove, in quanto adopravano per la discussione argomenti tratti direttamente dalla patristica greca. Un grande ostacolo allo scambio delle idee era stato infatti rappresentato dalla ignoranza delle rispettive lingue. Ignoranza che si estendeva ai nunzi pontifici. Ancora nel 1263, quindi ancora un secolo quasi dopo l'inizio di Eteriano, Michele Paleologo scrive a Urbano IV, dopo i colloqui avuti con Nicola di Cotrone, la forma era questa, del toponimo, scrive di essere stato favorevolmente colpito dall'aver finalmente conosciuto un nunzio che parlasse il greco. Gli altri immediate loqui ad invicem ignorabant. Ora le cose cominciavano a cambiare. Ugo Eteriano, per un verso, traduceva in latino il pseudo foziano Tractatus contra Francos, o De Francis, un altro titolo, Etter Reliquis Latinis, il quale, composto al tempo dello scisma di Cerulario, e perciò attribuito a Fozio, erroneamente, valeva un po' come una summa degli argomenti antilatini. Ma per altro verso, lo stesso Eteriano muniva di traduzione greca, già al suo primo apparire, il suo citato trattato dei mortali dei, che forse mirava proprio a contrapporsi al contrafrancos. Quindi abbiamo la messa in opera di uno strumento inaudito, cioè il testo bilingue, è vero, per raggiungere tutti gli stati di un pubblico nella sua sede propria. In tal modo, scritti tecnici divenivano veicoli di più larghi stimoli culturali. Ma quello dei due fratelli non doveva rimanere un episodio isolato nell'ambiente costantinopolitano, diviso tra foziani e latinofoni, costretti i primi a rivedere le loro posizioni, accolti i secondi con sempre migliore attenzione. Si pensa al patriarca, alla posizione del patriarca Giovanni XI, Becco, 1275-1282. Grande importanza dal punto di vista che ci interessa ebbero per tutto il XIII secolo i domenicani della provincia d'Oriente. Questo spiega l'interesse del Don Dan, evidentemente. E del 1252 la pubblicazione a Costantinopoli di un Tractatus contra Grecos, o contra errores grecorum, che doveva avere grandissima risonanza. A parte il suo rilievo concettuale, qui interessa il fatto singolare che anch'esso abbia visto la lingua in edizione bilingue. Né il caso rimase isolato. lo strumento della traduzione era ormai, si direbbe, entrato nel costume della polemica teologica e, diciamo, dello scambio culturale, perché ovviamente quando si parla di teologia a Bisanzio si dice qualcosa di diverso da quello, per esempio, che rappresenta nel nostro orizzonte vero culturale. L'autore del Tractatus è ignoto, era forse uno scolastico francese, come si vede da qualche dettaglio della traduzione, francese venuto a Costantinopoli con la delegazione papale del 1234, quella alla quale alludeva precedentemente il patriarca, l'imperatore. È entrato nel convento domenicano della città. I domenicani erano installati già da tempo a Costantinopoli, e non solo a Costantinopoli, in altre località dell'impero orientali. Lui stesso, l'autore, provvide a integrarlo con Excerpta Vari. Quindi si presenta questo trattato come una sorta di grande dossier di opuscoli, vero, che mirano allo scopo. Excerpta Vari, sempre greco-latini, quindi continua l'opera di traduzione, dei quali parte della tradizione manoscritta ha serbato traccia. Il trattato, questo grande dossier, non ha una tradizione unitaria. Il testo subì una rielaborazione nel 1305, ovviamente c'è il cambio di atteggiamento con l'accesso di Andronico, l'82, di atteggiamento nella politica unionistica. Rielaborazione del 305 a opera di un domenicano costantinopolitano, Bartolomeo di Costantinopoli viene citato. E qualche anno prima del 605, passi del testo, una sorta di grande antologia, sempre latino e greco, furono incorporati da un altro domenicano, Buonaccorsi da Bologna, nel suo gran florilegio bilingue, Thesaurus Veritatis Fidei, che risale a circa il 1290. Thesaurus, che a sua volta, intorno al 1326, sarebbe stato alquanto rielaborato, ovviamente con la caduta di pezzi e l'inserzione di altri, da Andrea Doto. Ecco, il livello delle traduzioni del complesso di codesti testi, peraltro ancora in parte inediti o male editi, è disuguale. In genere si mira ad una resa letterale, ma con gradazioni. Si va dal verbum de verbo a una più elaborata strutturazione formale, ma non difettano le vere e proprie manchevolezze. Si cita per esempio il caso del verbo prolambano, tradotto con percipio invece che con procedo. Difficoltà suscita anche il concetto di salvezza, non essendovi perfetta corrispondenza fra solgen, esoterra, soteria, servare, salvator, salus, e i concetti relativi, salvare, serbare, conservare. Più volte il perseguimento della letteralità si rivela maldestro, così per esempio nella traduzione di un'epistola del patriarca Germano II, condotta a espresso dire dell'autore verbo ad verbum, in questa epistola il medio apestrefometa è reso con avertimus nos in luogo di avertimur. L'aggettivo colobosso non viene colto nel suo senso figurato di imperfetto, ma viene reso approssimativamente una volta con infimus, un'altra con inutile. L'aggiuntura misumenon paratu theu con odibile aput deum, in luogo di odibile a Deo, anche per la ignoranza manifesta dell'uso postoclassico di parago, il genitivo invece di iupo. La frase oi de latinoi toa telesse cae epipsogon prosferus in atiumon eis thusian dove i due aggettivi modificano appunto agiumon, lo descrivono, viene reso con latini autem imperfectum et reprehensibile offerunt in sacrificium, quindi due complementi e oggetti neutri sostantivati, scilicet, poi continua, i azimum, dove c'è un inutile e sconsigliabile anche da poi da ciò che precede, perché il senso risulta inequivoco se si vede l'insieme, da un inutile mutamento di costruzione, con il passaggio dai due attributi ad aggettivi sostantivati e di agimum a posizione da complemento diretto quale è. Invece, due ex cerpeta da Teoctisto, metropolita di Adrianopoli, sono un esempio di traduzione non troppo pedissequa nei confronti dell'originale, seppur anch'essa non del tutto immune da fraintendimenti. Talvolta il traduttore si allontana dalla fonte per chiarire un termine tecnico o pregnante. Per esempio, tesse nella frase tesse ecclesias cacumenes, iupoton e iconomacon, gli iconomachi, si traduce ecclesia persecuzione me paziente, ci mette il genitivo assoluto, va bene, abba iconomachis, poi continua. I deste imaginum sanctarum impugnatoribus, quindi c'è una perifrasi per spiegare il termine economico che poteva, quindi qui si ha chiaro il concetto della sensibilità del traduttore alla destinazione della sua traduzione, alla sua comprensibilità. Poi si continua, me posso allen allos tais lexesi chromenos eisto auto che fa la ionno kindiuneuse tenne eusebeian, tradotto né forte aliter et aliter dictionibus utens in ipsum periclitetur capitulum quod est, adesso arriva ad eusebeia, pius cultus et religio vera, quindi amplia, vero, amplifica la resa di Eusebia, perché non vuole equivoci. Non sapete, tra l'altro, però, il traduttore, che nel tentare di semplificare l'andatura del testo greco arriva a tradirne un po' il senso. C'è il primo passo di quelli che ho distribuito, c'è la frase, vero, che voi vedete, parelte men ton ode leon o isauros, a lui un foglietto di quello, o Isauros, lì ci stanno gli altri, Isauros, apelte de e pautò, caio ios autu Constantino socopronimos, caio ecgonos autu cai omonimos. E dice, dunque, invece di rendere il parelte apelte, perché lì c'è la manifesta opposizione, l'accento diciamo batte, lui dice subtracto autem leone Isauro successi tiei filius eius Constantinus copronimus nominatus et nepos eius similiter tipis copronimus nominatus. Ecco, gli sfugge il valore quasi sinonimico dei due verbi e dà al secondo il valore di succedere, che è solo implicito. E in più non è affatto chiaro per la posizione di similiter se il secondo copronimo sia nipote del primo e non, come in realtà, di Leone. Oppure, ancora, tenne abdomen sine crotesen, si intende Leone IV, synodon, enne e erchen o papas Adrianos. Uses et es ecclesias to tote enumenes. Septimam synodum congregavit, in qua rexit Adrianus ecclesiam tunque unitam. Ecco, per sintetizzare, elimina il genitivo assoluto, ma perde poi il valore anche esso assoluto di erchen. Ecco. Fra i testi che si trovano nel contra gregos, a corredo della traduzione, della trattazione, scusa, sulla processione dello Spirito Santo, figura una interessante lettera, per quanto non completa, di circa il 1252, dei missionari domenicani in Georgia. Vi erano stati accolti dalla regina Rusuda nel 1240. Lettera indirizzata ai confratelli costantinopolitani a proposito dell'originale bizantino d'un cantico della liturgia georgiana, il pentecostario, in georgiano Zadiki o Satiki. Del tropario di tale cantico sono citati l'originale greco e due traduzioni latine, la seconda più recente di circa 50 anni. Il fatto getta luce sull'importanza annessa da tali traduttori alla loro attività propria. Non si trattava di proporre una volta per tutte una determinata versione, ma di ricontrollarne di volta in volta la tenuta. Il passo 2 riporta i tre testi, che insomma è inutile leggere, e le due versioni del testo del greco. Ecco, richiamo l'attenzione sul fatto che il secondo traduttore sembra essere, diciamo, più didascalico del primo, vuole prendere più cautele, vero, nella sua ricerca di chiarezza, e usa invece di apergazomenon efficiens la prima volta, cioè il primo efficiens, il secondo et fac, per chiarificare. E a proposito del termine anesperu, dice in vespertini il primo, in vespertini anche il secondo, però con l'aggiunta di velle non occidui, quindi un supplemento di parafrasi, diciamo, chiarificatrice. Dopo gli studi illuminanti, vero, pionieristici, anche se, come dico, rimasti un po' in ombra, del Dantin e anche del dottissimo suo confratello, il Lerners, Raymond Lerners, l'insieme di versioni alle quali si è accennato non è stato quasi più preso in considerazione. Esso invece meriterebbe, a mio avviso, di essere edito integralmente e raccolto in un corpus ben ordinato. In ogni caso, va rivendicato il suo significato storico, costituendo esso un prius che non è entrato ancora nella generale cultura, nella rinascita dell'interesse per il latino a Bisanzio dopo secoli di abbandono. I polemisti domenicani fungono appunto da trait d'union fra le due culture nella ripresa dei loro contatti. In cima alla nuova stagione, non tenendo conto di questi precedenti, viene collocato Massimo Planude. Ma non è un caso che sia proprio il suo nome a ricorrere, come vedremo, in uno degli scritti dei Domenicani. Il celebre monaco Planude tradusse, come è noto, numerosi testi, e sacri e profani. Ci si è chiesto con quale criterio scegliesse i secondi, se obbedendo a un suo programma culturale ben definito o in ragione della più o meno casualità della disponibilità dei codici latini relativi. E quanto ai secondi, ci si è meravigliati che gli abbia pensato a tradurre un'opera, non diremo certo secondaria, ma specialistica, quale il De Trinitate di Agostino, e non poniamo uno dei best seller dell'Occidente, quale Le Confessiones. Ma quanto alla prima questione, mi pare che non ci sia fatto conto sufficiente del ruolo giocatovi dalla prassi scolastica. perché i testi che traduce sono quelli che anche in Occidente erano nelle scuole. L'Ovidius Amatorius faceva parte, come noto, delle antologie, i Distica Catonis, anche qualche un caso se vuole presentare il Sommum Scipionis, ma quegli altri sono manifestamente i testi che andavano per la maggiore anche in Occidente. Ci sono 200-300 codici dell'Ovidius Amatorius, eccetera, l'Ovidius Sine Nomine, no, come lo chiama a volte nei codici. Ma quanto ai secondi testi, cioè quelli religiosi, ecco, la spiegazione sta nel fatto che Planude, prima di dedicarsi esclusivamente al suo didascaleion da monaco, aveva svolto una certa attività politico-religiosa, prima al fianco dell'unionista Michele Paleologo, il promotore del Concilio di Lione del 74, e poi dell'anti-unionista Andronico II. Ecco, trascurati questi elementi, rimane, diciamo, in piedi la domanda, dice, come mai si occupava? Tenendo conto di questi, c'è la risposta. Anzi, nella condotta di Planude, come in quella di altri, intervenne un vero e proprio voltafaccia, se possiamo dire, del quale è traccia nella sua attività letteraria di traduttore. Se infatti la traduzione del De Trinitate si inquadra nel suo intento di sostenere la politica di Emanuele, il quale probabilmente gliel'aveva commissionata, per così dire, la composizione del trattato antilatino, che viene dopo, sulla processione dello Spirito Santo, corrisponde manifestamente alle direttive di Andronico. Resta comunque assodato che l'enciclopedico Planute annoverò fra le sue moltissime conoscenze anche quella a alto livello della lingua latina. Anche per questo fu inviato ambasciatore a Venezia nel 1296, però dopo che già aveva fatto le grandi traduzioni. Conoscenza grazie alla quale doveva figurare come uno dei più autorevoli mediatori della cultura latina nel suo complesso a Bisanzio. Nella sua formazione linguistica dovettero certamente avere un ruolo i dotti rappresentanti della Chiesa romano-cattolica a Costantinopoli, già nei primi tempi della sua venuta nella capitale, dalla natia Nicomedia, forse negli anni Sessanta, ecco, quindi nel periodo in cui compare il Contragreco, se l'abbiamo citato, e in cui erano letti gli scritti dell'Eteriano, molto più antichi. Con costoro i rapporti dovettero farsi tesi dopo il suo mutato atteggiamento, e di ciò è traccia in una curiosa allusione post mortem che si legge in un altro testo polemico domenicano del 1305, il Tractatus contra errores orientalium et grecorum, in gran parte inedito, anch'esso. Trattato importante, allusione importante, perché fa toccare con mano la violenza di certe posizioni e anche perché permette di precisare, sia detto così, a passare la data di morte di Planude, che prima non era vero, accertata. Dice così a un certo punto l'autore, quidam maiorum, questi, cioè di questi occidentali, scrittura sa corrumpunt, cioè le scritture che traducono, i testi che traducono, sicut fecit calogerus nomine maximus, cioè Planudes. Qui Nuber, siamo quindi proprio perché è datato il testo, 1305, quindi sarà qualche mese prima, qualche giorno prima, nel corso di quell'anno. Qui Nuber obit in Costantinopoli. Nam, e dice il perché questo meritava questo biasimo. Nam, de latino in grecum, transtulit librum de Trinitate, magni doctoris Santi Augustini. Quemme, quinta ecumenica sinodus, commemorat, connumerat doctoribus ortodoxis. Processione me vero Spiritus Sanctus a filio in eodem libro traditam dictus calogerus subtiquit, avrebbe sottaciuto, et suppressit, perfect, profecto falsari et non traslatoris functus officio, et non solum hominibus mentidus, sed Deo. C'è un linguaggio da anatema. Ovviamente le dolose soppressioni imputate dall'ignoto autore a Planude non trovano, almeno per quello che noi sappiamo, riscontro nei testi, perlomeno nella tradizione di essi a noi nota. Ci sono, e i passi, porto il tre al passo vero 3, l'esempio proprio di ciò che riguarda la processione, cioè la parte mancante, che non solo c'è, ma è tradotta con la massima attenzione, no? C'è aumento di un'ameta, lechen, otto pneumato agion, uchi kai ec tu uyu. Non possiamo suddicere quando spirito su sanctus et te a figlio non procedat, e così l'altro. Se l'attacco sia in buona o in mala fede è difficile dire. Resta il fatto che la probità del traduttore Planude, e questo è ancora più curioso, doveva essere posta in questione anche da altri, sempre degli stessi ambienti. Circa un secolo e mezzo dopo, il patriarca Gennadio Scolario, 1405-1472, nel suo trattato antiunionista per Ec Poreus su tua io Pneumatos, che è del 1444-45, in faccia a Planude di non aver saputo distinguere nella traduzione del De Trinitate, era sempre quella la pietra di paragone, tra i verbi Ec Poreus e Proienai. Naturalmente l'uno accentuava e l'altro attenuava la processione, rendendoli entrambi con procedere e ponendo così sullo stesso piano la processione dello Spirito Santo dal Padre, dal Figlio e quella simultanea del Padre e del Figlio. Ma già vari decenni prima dello Scolario, l'antipalamita, poi anch'esso domenicano, Manuele Caleca, che è morto nel 410, in un'invettiva contro Giuseppe Briegno, una questione, altro scambio vero polemico, dibattendo la terminologia del procedere, i vari verbi, le varie espressioni, proerchestai, proienai, ec poreusis, proesis, ec pempsis, pneusis, eccetera. Ecco, nel dibattere questa terminologia critica lo stesso fraintendimento di un traduttore, non dice il nome, ma è certamente Planude, di un Hermeneus latino che non nomina, dice ostis pote en, cioè un'espressione un po' disdegnosa, è vero? Un po' speciativa, se vogliamo, chiunque sia stato, dicendo appunto che aveva commesso questo gravissimo errore. Era dunque frequente l'intreccio di filologia e teologia a sostegno dell'una o dell'altra tesi polemica. Questo a giustificare quello che ho detto, che questi testi hanno interesse storico-culturale e non soltanto storico-ecclesiastico. Ora, che la genesi di testi religiosi da Planude è stata chiarita in modo esauriente, restano da valutare il metodo e la qualità delle medesime traduzioni. Tralasciando il pseudo-agostiniano e molto letto nel Medioevo trattatello de duodecime abusivis seculis, la cui traduzione planudea è inedita, e premesso che il grosso della traduzione del De Trinitate lo è del pari, abbiamo solo pochi capitoli nella patologia, e gioco forza limitarsi alla considerazione appunto di questi capitoli, cioè i 17 e 19 del libro quindicesimo, patologia 147, il volume, patologia greca, questa, l'altra era latina. Giova l'esame diretto di un paio di luoghi che trovate nel quarto e quinto estratto, che non faccio attentamente perché richiederebbe molto tempo e per i quali rilevo soltanto qualche dettaglio, poi non si potrà consultare attentamente. Il primo passo, il quarto, si tratta di un passo esegetico, c'è la esegesi di espressioni, vero? Passo esegetico a struttura largamente paratattica. Agostino segue una impostazione per brevi, è vero, cola, giusto apposti. Non pertanto inelegante, nel quale passo il peso delle frequenti ripetizioni è come attenuato da moderate misure retoriche. Per esempio c'è la variatio, al verso dico settimo, sì, al centro della prima colonna, c'è in deo manet, et deus manet in eo, vale l'ordine delle parole. Oppure c'è il chiasmo, un po' dopo, dice qui, in occo, quia in ipso manemus et ipse nobis, che è lo spirito suo detti nobis. C'è la anularità della struttura, per esempio l'attacco da ipse est igitur deus dilectio, a rigo 4, è ripreso alla fine, eum in delectione me dei et proxi, et ipse dilectio est, strutturazione retorica di larga. Ecco, tutto ciò è reso dal greco planudeo con puntuale fedeltà. Quindi si preoccupa, diciamo, di un verbo modeverbo che sia attento ai valori retorici, non a una trasposizione puramente meccanica. Talvolta forse c'è qualche eccesso di attenzione, di fedeltà, con l'espressione iniziale de quo dediti, che del linguaggio del latino biblico, la rende con ex eu dedo, che in greco suona un po' più pedestre. Facit manere, poiei menein, c'è anche nella lingua classica, poiei menein, si poteva avere a disposizione molte altre. Ci sono due auto, poi, per ipse, uno alla fine, et ipse dilectio est, fa cae auto agape estin, e poco prima la stessa cosa, in cui non si è molto proprio, diciamo, in chiaro, cioè, se abbia voluto rendere e questo fatto, oppure ci sia qualche altro motivo. Ho visto le due versioni, questa del passo, diciamo, riportato in bilingue, e quello della tradizione diretta, non c'è differenza, quindi diciamo, cioè, è uno dei punti che andrebbe. Il secondo passo, invece, è di impianto più discorsivo, più elaborato più discorsivamente, e anche qui traspare la stessa cura d'una letteralità non meccanica. Ad esempio, l'aggiuntura de spiritu sancto, qui spiritus sanctus, la ripresa le panalessi con il relativo, no? Che è troppo latina, viene abilmente risolta con peritu agio pneumatos. Poi invece di dire il quale, qui spiritus sanctus, dice os, avverbio, os to pneumato e to agion. Cioè così, quindi evita questa letteralità che sarebbe cozzato contro lo spirito della lingua greca. E così l'inciso qui a in vicem sedili contu patria et filium, insopportabile in greco, viene trasferito in fin di periodo e legato con scioltezza al resto mediante un nesso relativo. Casen invece del causale quia, che andava bene se si fosse conservato il tutto. Quindi c'è anche da notare che la clausola ritmica, ovviamente siamo nel XII secolo, un testo che si rispettasse dal punto di vista della sua caratura letteraria doveva avere un suo cursus. Ecco, anche nella traduzione la clausola ritmica è impiegata in misura molto alta nel secondo passo, meno nel primo, perché ovviamente la paratassi che domina faceva corrispondere ad una minore esigenza di ritmicità. Quindi la gradazione stilistica, diciamo, fra i due passi traspare anche da questo punto di vista. Si può concludere tranquillamente che a confronto dei precedenti ancora timidi dei primi traduttori, Planute mostra nel passare dall'una lingua all'altra una destrezza senz'altro più scalzita. Questo ci permette di delineare una certa sequenza di esperienze in senso ascendente. Dopo di lui, e certamente sul suo esempio, la pratica del tradurre testi religiosi a Bisanzio doveva rimanere a lungo in auge. Dal contemporaneo Manuele Olobolo al già citato Gennadio Scolario, talvolta con risultati di ancora più alto livello. Ma ci riferiamo soprattutto ai fratelli Cidone, Demetrio, 1332-1397, finissimo letterato, ispiratore o maestro del già citato Caleca, e Procoro, 1330-1368. Tutti latinofoni e grandi conoscitori della scolastica occidentale, oltre che della patristica greca. Essi tradussero, fra l'altro, dividendosi i compiti, i due fratelli, le due Summe e molte altre opere di San Tommaso, il tutto ancora in parte massima inedito. Un'eccezione costituiscono alcuni scritti di Sant'Agostino, tradotti da Procoro, ai quali è toccata la felice sorte di trovare un editor princeps, un editor princeps della statura di Herbert Hunger. Su questi ultimi ci soffermeremo per rimanere su un autore sul quale abbiamo già discorso come tradotto, diciamo, in greco. Rispetto alla traduzione agostiniana di Planude, con quella di Procoro si ha un vero e proprio salto di qualità. Egli mira alla fedeltà, ma anche a scioltezza e eleganza. Talvolta sembra che abbia presente il precetto geronimiano non verbum de verbo, se de sensum ex exprimere de sensu. Il suo vocabolario è versatile, così la sintassi. Il livello stilistico è alto, ma non senza scarti, allo scopo evidente di non respingere a priori lettori non troppo dotati culturalmente. Per esempio, vi sono modi colloquiali nell'insieme alto, i vari più che perfetti senza aumento, gli scambi di coniugazione dei verbi contratti, per esempio diasafun per diasafein, episteito per epistuto e così via. Fra gli accorgimenti messi in opera per ottenere una resa efficace e insieme varia, si possono menzionare i seguenti. Non leggo tutto, do solo degli accenni. I seguenti tratti dalla traduzione delle otto epistole. Impiego di più termini greci per uno latino, a seconda delle esigenze. Per esempio, per moveo si hanno otto corrispondenze, in otto luoghi diversi. De dittomai, di ataratto, di speiseis, poieo, felgo, soriubeo, fratto, saleuo, taratto. Per auctoritas a sette. Axia, axioma, apophasis, despoteia, despesiotes, fespisma, cresis graphiche, scritturale, c'è la base dell'attestazione della scrittura. Per mense, per utique, 5, di anoia, eccetera. Per animus, 4, di anoia, nussu, prosiumia, psiche. Inoltre, 11 termini latini hanno ciascuno 3 corrispondenti in greco, 43 ne hanno 2. C'è ovviamente, benché in misura assai minore, il fenomeno contrario, c'è la difficoltà di trovare questa varietà, diciamo, di resa. Per esempio, i due aggettivi impunitus e licenziosus sono resi entrambi con acolastos, non ha trovato un altro corrispondente. Ingenium, intellectus, mense sono resi tutti e tre con nusso e così via. Ma di norma ciò non sembra dovuto a deficienza lessicale del traduttore, in quanto che alcuni di questi termini in altro contesto li ha usati in alternanza. Forse ha voluto legare ad una determinata resa semantica un determinato termine o due termini. Altro espediente, una abbondanza con finalità didascalica. Di questo abbiamo visto qualche esempio già nelle prime traduzioni. Per esempio, invece di dire agere, nell'espressione imperatores, agere nihil possunt, dice politeuestai tacoina. Ecco, perché agere soltanto mi sembra insufficiente. O i basileis, mediurantai, eccetera. Per non debui, precisa udicaion egemai. Cum docuziore amico, metandrosso filo, paideias euegontos. Questo è ovviamente interessante perché un greco sente il bisogno di chiarire l'identificazione della dottrina con la paideia. E così altri esempi. Elegante uso dell'iperbato per dare l'andatura della struttura latina, sia pure talvolta con qualche forzatura. Salto gli esempi. Anche nelle altre traduzioni Procoro mostra la stessa tendenza. Nella categoria delle modifiche per abbondanza, a rendere non tanto più esplicito quanto più espressivo e più conforme allo spirito del greco il testo, rientrano per esempio nel pseudo-agostiniano de decem legis et decem plagis espressioni come queste, traumata e collutei, invece di eranta vulnera, quindi ho bisogno di precisare l'idea di essere, ti toion ainitetai, invece di dire quid est ergo, e così via. Per finalità analoga hanno molti casi di variazioni di dettaglio, passaggi di tempo da passivo, di tempo, passaggi di moto, passaggi di diatesi verbale, participi invece dell'infinito articolato e così via. L'esemplificazione potrebbe continuare e anche attingendo ad altri traduttori, ma non si farebbe che ulteriormente confermare l'assunto relativo all'alto livello raggiunto dall'operosità loro. Vogliamo concludere ribadendo il pensiero iniziale, che è questo: della traduzione dal latino a Bisanzio, anche e soprattutto nell'ambito della letteratura non profana, un capitolo circoscritto sì, ma la cui rilevanza storico-culturale ancora sfugge e che attende di essere valutata appieno nella sua organicità a partire da edizioni attendibili dei testi e da una esegesi adeguata. Teologia, esperienza linguistica e letteraria interagiscono su questo terreno per almeno tre secoli. Sono dell'avviso che di tali fermenti, la cui conoscenza va perciò recuperata, si sostanzierà ben presto. Penso ad esempio ai dibattiti sul tradurre anche l'umanesimo occidentale. Quindi l'interesse di creare anche un retroterra a questo umanesimo che spesso, è vero, si vede spuntare come autoschediasticamente, diciamo, sul nostro orizzonte. Umanesimo che fu certamente continuatore e ricreatore originale di queste esperienze. Grazie. Bene, Garzia. Bene, è stato, diciamo, è stata una lezione molto tutta nuova, per noi almeno, e molto ricca. Ho cominciato a vedere i testi latino senso lato, come ho detto, religiosi, come la Vita di San Martino, Gregorio Magno, e ben specificato il titolo che ha richiamato l'attenzione, traduzione di testi latini, non le traduzioni. Questo già si intravedeva. Poi ha visto un po' gli ultimi tre secoli, ha preso in considerazione in particolare gli ultimi tre secoli, a incominciare dal 1176 per il rilievo massimo da dare a studiosi, cioè a traduttori di una certa consistenza, viva consistenza, come Teocristo e come Massimo Plalude. Massimo Plalude è importantissimo per la traduzione del Trinitate. D'altra parte, è in quell'ambiente, in quest'altro ambiente, la Trinità aveva una funzione grandissima, senza la quale non si poteva discutere di teologia o di altro. E questo si spiega perché il Panituta ha tradotto il De Trinitate. E ha richiamato l'attenzione anche su quello che è la base ritmica della stessa traduzione, come per il Plalude ha dimostrato. Dopo il Plalude ha parlato degli, di Citone, Demetrio e Protero, dei due fratelli Citone. Sto facendo in breve perché non potrei entrare in tutte le lingue per il tempo che scappa, i quali producono San Tommaso, notando la fedeltà e la raccolta dei valori formali. E questo a me è interessato tanto, richiamare l'attenzione sui valori formali per la nobiltà, dovremmo dire, della traduzione. E questo che piace come succo di tutto il discorso, che poi l'umanesimo non nasce così come Minerva dal cervello di Giove, e c'è tutta una preparazione, e questa preparazione merita molta attenzione. E ringraziamo il professor. Io ho fatto una scheletica, niente, un'ombra solo, però Enrico la leggeremo con massima attenzione. Cara zia, sei sempre il grande maestro.